Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français. Allora, cari ascoltatori. In questo lunedì, sì, teniamolo in sottofondo questo inno. Ho scelto in questo lunedì 24 aprile, in cui, ohimè, non c'è Alessandro ma solo Oscar Giannino, abbracci Alessandro e i suoi bimbi, di unire alla Marsigliese, come è ovvio. Come avrete capito, abbiamo iniziato con chi ha preso più voti, cioè Emmanuel Macron. No, con la Le Pen. Perché? Perché comunque in questo quadro di abbattimento dei vecchi partiti di destra e di sinistra c'è poco da fare. La grande novità è il senza partito che prende più voti. Sì, però state attenti, la partita resta aperta. E in questa partita la signora Le Pen è la parte che potrebbe cambiare la storia. Liberté, liberté, chérie, en bas avec tes défenseurs, en bas avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire a Guatemala, la France. Vabbè, questa noi l'abbiamo studiata quando eravamo, pensate, alle scuole elementari a Torino, e devo dire la verità, non so quanti ancora a memoria ricordino la Marsigliese. Perché? Perché in questa rivoluzione dal basso c'è il senso, comunque, secondo il mio personalissimo avviso, di un paese che è nell'identità dell'Europa, di una particolare Europa, un'Europa delle nazioni, non un'Europa confusa con il supergoverno. E però, come vedete poi, come è sempre avvenuto dalla rivoluzione in avanti, colpi dal basso che modificano ciò che è in politica. Negli altri paesi come l'Italia sembra invece per decenni immobile. Allora, non è un caso, o sì, forse è assolutamente un caso, che però in questo 24 aprile il santo del giorno è un santo tedesco. Il che ci richiama al fatto che poi i francesi dovranno scegliere, ma dovranno fare i conti col partner forte dell'Europa. In questo 24 aprile è un San Fedele di Sigmaringen, che diventa poi cappuccino, e Propaganda Fide lo arruolerà e lo manderà in una parte della Germania in cui i luterani avanzavano molto dopo la riforma, e per effetto delle prediche che faceva di una certa efficacia, soldati luterani gli chiederanno di rimangiarsene una in particolare, e di fronte al suo no lo passeranno a fil di spada. E mi spiace che non ci sia oggi Alessandro, perché avrei ricordato che tra i tanti santi del giorno c'è anche un Alessandro di Lione, in questo caso un martire francese del terzo secolo. E chi lo sa che questo martire francese non sia quello al quale i seguaci del Le Pen oggi rivolgono la loro preghiera perché possa vincere. E guardate, da Le Pen, anche se nel conto finale dei voti ieri è stata tratto a lungo il vantaggio della conta dei voti, che progressivamente la faceva sembrare molto più avanti, ma perché erano i comuni piccoli, poi a un certo punto si è capito, l'hanno detto tutte le maratone televisive, a cominciare da quella di Mentana, però al conto finale e parecchio più indietro di Emmanuel Macron, perché Emmanuel Macron ha chiuso col 23,75%, lei con il 21,53%, Fillon è arrivato a sfiorare il 20%, sta al 19,9% dei voti, Mélenchon ha un soffio da Fillon, perché Mélenchon è il candidato della sinistra che seppellisce il Partito Socialista francese, è una sinistra situazionista, non comunista ma più a sinistra del vecchio Partito Comunista Francese, ma un tuo antieuropeista almeno quanto la Le Pen, e beh, arriva a sfiorare Fillon perché si ferma al 19,7% rispetto al 19,9% di Fillon. Questo è il conto, se guardate la carta geografica della Francia è abbastanza impressionante, perché con Macron sta al di là dell'Île de France, ovviamente, Parigi e le grandi città, però tutta la striscia occidentale che dalla Normandia alla Bretagna poi si allunga verso il centro del paese, ma lì diventa esile e sottile, sto parlando dei dipartimenti considerati per il primo nella graduatoria dei voti, si riallarga un pochino verso il sud-ovest, ma per il resto poi tutta la parte orientale, perdonatemi, invece della Francia, dal nord operaio tradizionalmente comunista e socialista fino a tutto il sud, ovviamente sta tutto con la Le Pen. E fine della prima batteria di considerazioni, attenti alla partecipazione al voto, perché più basso sarà il tasso di partecipazione, molti lo hanno già ripetuto ieri sera, maggiore sarà la possibilità che la Le Pen possa davvero vincere. La partita non è affatto chiusa. In campo le caratteristiche di questi due personaggi politici: Macron ha creato da nulla un movimento politico il cui peso si vedrà però alle legislative, era molto indietro ed è molto indietro ancora nel indicare i suoi candidati in tutti i collegi. Chi l'ha sentito ieri sera sa che è un leader freddo, addirittura sembra costruito a tavolino in vitro, non è un leader trascinatore, difende l'Europa, ecco, questa è la grande differenza rispetto alla Le Pen, candidata dal basso, candidata che alterna il pedale pigiato sull'identità francese contro i musulmani, contro gli immigranti, durissima su questo, all'attacco all'Europa. Questi sono i suoi due grandi temi. Anche ieri è intervenuto soprattutto su questo secondo punto, a dire la verità, via dalla gabbia di Bruxelles. Da questo punto di vista è la grande lezione che può cambiare o meno il segno dell'Europa, visto che in Olanda tante chiacchiere si sono risolte poi nell'irrilevanza del Partito Nazionalista Olandese, ma qui stiamo parlando dell'asse di ferro franco-tedesco europeo. E il confronto tra un candidato giovane, ex socialista, diciamocelo pure, che fonda un partito il cui set di proposte è una specie di mélange un po' di centro, un po' socialiste, non molto netto, a dirvi la verità, non molto netto, sembra una specie di bricolage, un po' di qua e un po' di là, apposta ovviamente per far convergere elettori. Da questo punto di vista ci è riuscito, ha incarnato l'insoddisfazione della Francia verso Olanda e il suo partito socialista, vedete che fine ha fatto Benoît, e dall'altra parte ridando vita a una sinistra antagonista e situazionista come quella di Mélenchon. Ma il vero confronto è tra una Le Pen non più coi toni del padre, anche se in campagna elettorale alla fine ha rievocato il fatto che non bisogna avercela col governo di Vichy collaborazionista con i nazisti, e dall'altra parte la Spagna e la Francia invece integrata, dei redditi medio elevati, che crede nel futuro. Ecco, questo sarà il confronto, e siccome la percentuale si farà sul totale dei votanti, sarà la partecipazione al voto quella che decide, cioè quanto parte l'elettorato di Fillon davvero è in grado di votare e deciderà di votare per Macron, quanto parte l'elettorato di Mélenchon deciderà di partecipare al voto, e in quel caso, non potendo votare, credo, per Macron, magari deciderà di votare per la Le Pen in quanto antieuropea, come antieuropeo, sia pure con un diverso colore politico, e Mélenchon. Ecco, sono tutti interrogativi aperti di fronte a noi. Lasciate che, prima di presentarvi gli ospiti, vi ricordi anche che oggi, guarda, tremate, c'è l'anniversario della caduta di Troia, addirittura nel 1184 avanti Cristo, se si prende sul serio la cronologia dell'Iliade. Beh, cadeva oggi entrava il cavallo di Troia, e stanotte ci sarebbe stata la sorpresina per i troiani per uscita dal ventre del cavallo dei suoi conquistatori. Attenzione, un segnale che ci viene da lontano per capire che il voto francese non è affatto chiuso, e anche dei significati che riguardano l'Italia, e ne parleremo con i nostri due ospiti che adesso vado a presentarvi. Per il resto, auguri a Gaia Tortora, che oggi fa gli anni e che io stimo tantissimo, quindi oltre agli auguri di compleanno un grande abbraccio. Fa gli anni anche la segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, io me l'aspettavo più riformista. Anna Maria, dai che ce n'hai qualcuno buono da tirar su. E auguri a Stefania Rocca, un'attrice italiana che mi è sempre piaciuta per le sue interpretazioni. Guardate, vi dico solo che mentre sull'interpretazione europea e francese c'è l'ampia, su tutti i giornali ve ne ha parlato già Giulia Crivelli, c'è solo un amplissimo forbice di interpretazioni. Devo dirvi la verità, io vado alle cose in chiave italiana. Le cose in chiave italiana mi ha colpito il giornale. L'apertura del giornale è un segnale al centrodestra italiano, perché Alessandro Sallusti fa un titolo che dice: la sinistra crolla, e vabbè, la Le Pen non sfonda. Quindi sul fatto che il giornale non cavalchi la Le Pen, che pure insomma è l'antagonista di Macron ed è l'unico pezzo che emerge dalla storica rappresentanza dei vecchi partiti, perché il fronte poi in realtà sì, la parte populista antisistema, ma cioè, fa parte del sistema politico francese dagli anni 70 per via del padre di Marine. Allora, che il giornale non pigi il piede sull'acceleratore della Le Pen è un chiaro messaggio di, diciamo, della parte berlusconiana di Forza Italia a Salvini e a la Meloni. Salvini e la Meloni, che sono invece da tutt'altra parte nel risultato e incoraggiano ed esaltano il successo del Le Pen. Molto più problematica la lettura a sinistra, perché ieri sera, mentre c'era la diretta dei parlamentari renziani sui social, tentavano di intestarsi Macron, tanto che il sottoscritto ha detto: ma signori, Macron nasce avendo dovuto chiudere col Patto Socialista, fratello del PD nell'Internazionale Socialista Europea, da una parte, quindi ha fatto una cesura. È come se Renzi avesse nel 2012 buttato per aria al tavolo delle primarie del PD, che non gli fecero fare aperte, come erano state invece aperte per Prodi, mentre ricordate Bersani gliele fece tenere chiuse. Invece Renzi ha fatto un'altra scelta: rimane nel PD, scissioni, battaglie, lotte, ma insomma non è la presa d'atto della fine del partito di sinistra novecentesca, ed è da questa presa d'atto invece che nasce Macron. Poi, secondo Macron, è l'unico che parla bene dell'Europa, dice che va cambiata, però non fa l'attacco ricorrente e sistematico che Renzi e Renziani fanno agli eurocrati. E da questo punto di vista, oggi per esempio mi ha colpito che Piero Fassino su Repubblica, in un'intervista a Giovanna Casadio, dica: con questo voto il centrosinistra nasce anche in Francia. Allora, la mia opinione, per quello che può contare, è che mi pare molto difficile che Macron rappresenti l'Ulivo, ecco, non è così. Poi uno può provare a intestarsi di tutto, ma non mi pare che sia questo il senso. Consentitemi ancora di dire una cosa: per chi non avesse sentito il giornale radio, Gabriele Del Grande è libero dalla Turchia, e questa è una grandissima notizia, perché temevamo che i turchi se lo sarebbero tenuto. Viva tutti coloro che si sono dati da fare per la sua libertà, e io sono felice che domani viva una giornata della liberazione, il 25 aprile, nel senso letterale del termine, perché c'era la possibilità che purtroppo le autorità turche del regime autocratico di Erdogan se lo tenessero. Non è così. Tutti, nel grande e nel piccolo, abbiamo tentato di darci da fare per questa causa. Un abbraccio a lui e ai suoi familiari, e una solidarietà grande come un grattacielo a chi in Turchia non si riconosce nel regime autocratico di Erdogan. Andiamo ai nostri ospiti per tentare di capire meglio quale sia la loro opinione su quel che hanno scelto i francesi, e anche che cosa questo possa voler dire di qua a due settimane, quando ci sarà la scelta del doppio turno, anche per la politica italiana, oltre che europea. Abbiamo con noi, e molto la ringrazio in questo giorno prefestivo, Annalisa Cuzzocrea, cronista politica di Repubblica. Grazie di essere con noi, Annalisa. Buongiorno Oscar, a tutti gli ascoltatori. Ed Elisa Calessi, cronista parlamentare di Libero. Grazie, un abbraccio anche a te, Elisa. Buongiorno Oscar, a te e a tutti. Io non vorrei che voi pensaste che questo fatto che io mando gli abbracci sia politicamente scorretto, è una maniera calorosa per dire, ci tengo a dirlo perché già ho visto prima, dice, ma perché mandi gli abbracci? No, saluti, va bene, cari ascoltatori, mamma mia, bisogna essere attenti a ogni codice di correttezza qui, altrimenti. Allora, Annalisa, cominciamo da te. Sorpresa, soprattutto per i risultati a sinistra. B, secondo te è scontato che vinca Macron davvero oppure c'è possibilità di sorpresa? Facciamo un primo giro sulla Francia, poi andiamo all'Italia. Annalisa, allora. Guarda, sono d'accordo con la tua analisi. Sorpresa, più che altro c'è stata una specie di sospiro di sollievo ieri da parte di chi non apprezza le politiche sovraniste e populiste, perché a un certo punto si era temuto anche per dei sondaggi belgi, se non sbaglio, che il ballottaggio sarebbe stato tra Le Pen e Fillon, e a quel punto sarebbe stato un ballottaggio giocato tutto a destra e anche Fillon, cioè, tra destra e ultradestra, insomma, ecco. Tra destra e ultradestra, anche Fillon era stato comunque più cauto nella sua difesa dell'Europa, quindi di sicuro non un sondaggio, non un ballottaggio che poteva piacere all'Europa. Quindi più che sorpresa, un sospiro di sollievo. E però sono molto d'accordo con la tua analisi, nel senso che ancora è tutto da vedere. Prima di tutto perché si è visto, lo hanno detto tutti i sondaggisti nei giorni prima del voto, che era un consenso, il consenso di questi candidati era molto volatile, cambiava spesso di continuo, è stato detto che era molto difficile fissare come voleva votare l'elettorato, e questa volatilità potrebbe continuare. E poi perché lo diceva Salvini nell'intervista Repubblica, Salvini dice: non credo proprio che gli operai che votano Mélenchon voteranno l'uomo dell'establishment, certo, il ragazzo dell'ENA, il borghese Macron, e quindi anche questo è un pericolo, perché il voto estremo di Mélenchon non è sicuramente un voto che, e infatti lui è l'unico, noi continuiamo a dire tutti che i candidati sconfitti hanno fatto fronte comune contro Le Pen, e non è vero, perché Mélenchon ha detto decidere la piattaforma, ci ricorda qualcuno in questo, dice non ho un mandato, ha detto proprio non ho un mandato per decidere io che cosa devono fare i miei sostenitori, lo decideremo in rete. Però è anche vero, questo fa sperare, insomma, sempre chi crede che il sovranismo e il populismo non portino buoni esiti, è anche vero che io penso che Le Pen e Mélenchon siano due, abbiano delle caratteristiche davvero troppo diverse, cioè i sovranisti di Francia sono spaccati in due tra destra e sinistra. Sì. Non è come da noi, dove il Movimento 5 Stelle riesce a raccogliere indistintamente sia voti di destra che voti di sinistra. Però Annalisa, la storia francese in questo, io ci ho fatto puntate sopra, perché poi in Italia non la studiamo abbastanza e ci teniamo a dimenticarci. È piena di esempi dall'Ottocento di uomini di sinistra che finiscono per lanciare simboli di destra. Il generale Boulanger nasce indicato da leader di quella che all'epoca era la Francia radicale di sinistra. Doriot, il grande sindaco comunista negli anni 20, diventa il fondatore di un movimento di destra nazionalista, quindi non lo sappiamo anche lì, hai ragione secondo me, io la penso come te, però alla fine è un elettorato che vota convintamente l'estrema sinistra, che si possa ritrovare a votare l'estrema destra, risulta difficile, compatto, mi risulta difficile, e può essere la speranza in più di Macron, però ti ripeto, sono d'accordo con la tua analisi, davvero non si può dire nulla ancora. Ecco, sentiamo invece Elisa che pensa. Ma il primo dato, quello che mi ha colpito di più, è il disastro della sinistra e della destra gollista, che è il fatto, secondo me, epocale di queste elezioni. Veramente pensavo ieri sera, è successo quello che da noi è successo con Mani Pulite, cioè proprio la distruzione dei partiti tradizionali. È la fine della Quinta Repubblica. Poi vedremo la legislativa, caduto, però era così. Esatto. A noi è successo per via giudiziaria, loro per la crisi economica, diciamo così, per l'esplosione delle diseguaglianze, però è comunque un fatto epocale. Non so se in partiti, cioè se la sinistra e la destra gollista riusciranno a ripigliarsi. Questo non è scontato, è possibile, ma non è assolutamente scontato. E l'altro dato è, come dicevi tu, che la Le Pen certo ottiene un grandissimo risultato, ma non sfonda. E anche noi, tu citavi il giornale, anche noi ieri abbiamo fatto un titolo, lo so, all'interno di questo tipo, e un titolo che di fatto anticipa la difficoltà che lei avrà al ballottaggio a recuperare i milioni di voti che gli servirebbero per votare Macron, perché è evidente che adesso si creerà il cosiddetto fronte repubblicano, per quanto io non sarei così diciamo tranquilla, cioè nel senso non è detto comunque, cioè la vittoria di Macron non è scontata, perché è vero che sulla carta al sostegno di Fillon, di quasi tutti gli esclusi tranne Mélenchon, ma come sappiamo, come abbiamo visto tantissime volte, diciamo l'endorsement dei leader non è detto che portino voti. Ma no, i cattolici tradizionalisti di Fillon, che sono quelli che lo hanno salvato organizzandogli, riempiendogli la piazza quando era in fondo per gli schiaffi che aveva preso, giustamente secondo me, per i soldi intestati ai parenti. Però detto tutto questo, quelli là, i tradizionalisti cattolici, no, non votano Macron, per dirne una. Molti o non voteranno o voteranno Le Pen, e anche sull'elettorato di Mélenchon stare attento, perché su tanti temi, esatto, cioè, al di là del voto utile, cioè voto questo per non far vincere l'altro, ci sono delle oggettive somiglianze tra il programma della Le Pen e quello paradossalmente di sinistra della Mélenchon, che sono il vero segno poi del fatto che la destra e la sinistra tradizionali, che diciamo si distribuiscono lungo un asse orizzontale di scelte politiche, in questo caso la grande scelta per effetto della crisi tra le vittime e i delusi e i diffidenti della globalizzazione, dell'internazionalizzazione e dell'effetto da cui sono stati colpiti, cioè meno reddito, più immigrati che loro vivono come concorrenti per risorse scarse, e invece gli integrati che credono nello sviluppo, se ci pensate bene, cari ascoltatori, non è più sull'asse orizzontale destra-sinistra, è su un asse verticale: ritorno, Stato-Nazione, dazi, muri alle frontiere, le monete nazionali, vincoli sui capitali, eccetera. Oppure verso l'alto, cessione di sovranità, integrazione e coordinamento internazionale, sia per la parte dei capitali, sia per i migranti, le risorse di capitale, ma le risorse umane soprattutto. È una scelta orizzontale, verticale. Per questo poi pezzi di destra e di sinistra, ex elettorati che non si riconoscono più nei partiti tradizionali, si ricollocano su un asse che è vicini o lontani, l'esercizio della delega è vicino o lontano rispetto a chi lo dà. Ecco, e che è la scelta tra quello che un tempo era l'internazionalismo e quello che è diventato il nazionalismo, con cui si confonde il patriottismo. E l'internazionalismo una volta era di sinistra, erano i liberali conservatori, erano di destra nazionale. Oggi non è più così. Oggi c'è gente da una parte e dall'altra che vuole la risposta vicina, la patria, le frontiere, i muri, i dazi, le monete nazionali, e c'è una parte sia di qua che di là che non si riconosce in tutto questo. Allora noi adesso abbiamo un minuto di pubblicità. Io vi ricordo 800240024, se volete darci un'opinione sulla Francia ma anche sull'impatto che ha sull'Italia, e poi con i nostri due ospiti adesso dopo la pubblicità facciamo un secondo giro per vedere qual è l'effetto possibile secondo loro del primo turno, di chi può vincere al secondo, ma sulla politica italiana. Mattino. Eccoci qui tornati a riflettere su questo voto. Molti di voi dicono, ascoltatori che mandano gli sms, ma in fondo perché ci mettete tanta enfasi? Nessuna sorpresa. Ma nessuna sorpresa, però c'era un enorme punto interrogativo sui sondaggi questa volta, perché erano costruiti su serie storiche in cui non si incorporavano situazioni precedenti in cui c'era l'esplosione dei partiti della Quinta Repubblica. Quindi, siccome c'era un grande dubbio fondato tecnicamente sui sondaggi, vedere i sondaggi così abbastanza millimetricamente confermati, invece punto numero uno, è non una sorpresa, ma consegna un elemento nuovo. L'elemento nuovo bis poi è che le proporzioni del distacco, per esempio, che hanno socialista sono maggiori di quanto non sembra, cioè i vecchi partiti sono proprio defunti, l'UMP e il Partito Socialista, e vedremo alle legislative come faranno, perché in ogni caso il presidente eletto rischia di trovarsi con elevatissima probabilità, chiunque sia dei due, Macron o Le Pen, in coabitazione, e in coabitazione significa che poi non può fare i più delle cose che ha annunciato nel programma, per esempio uscire dall'Europa se vince Le Pen, perché a Le Pen in quel caso come Presidente della Repubblica eletta resta come potere, in caso di un governo non di maggioranza del Fronte Nazionale, come unica carta resta quella di convocare un referendum se ha almeno però 227 parlamentari eletti. Ve la ricordo che attualmente il Fronte Nazionale ne ha due alla Camera. Di sicuro se vincesse lei ci sarebbe un grande effetto di trascinamento alle legislative, ma bisogna vedere poi, perché bisogna le legislative, anche lì si va al ballottaggio con un filtro a 12,5% tra primo e secondo turno, ma poi bisogna avere la maggioranza relativa. Quindi grandi punti interrogativi. Io vi dico che invido ai francesi il sistema elettorale e il sistema di scelta diretta. Si sa in due ore chi va al secondo turno, tra due settimane sapremo in due ore chi è il presidente. Ricordatevene se vi faranno votare col proporzionale qua in Italia. Ed ecco perché andiamo a questo secondo passaggio con le nostre ospiti, con Annalisa Cuzzocrea e Elisa Calesi, per capire qual è il possibile riflesso italiano sugli attori politici italiani, su chi si vuole intestare questo o quello, o se invece non c'è semplicemente nessun effetto. Annalisa, io intanto adesso non ti mando un abbraccio per non essere equivocato, però ti volevo anche esprimere solidarietà, perché sei stata recentemente randellata sui social, come capita in Italia quando si scrive di alcuni argomenti di un movimento politico, e volevo dirti che insomma, se questo paese si abitua a organizzare campagne ad personam contro i giornalisti per quello che scrivono, facendoli randellare dai loro sostenitori, è un pessimo segno, ecco, è un pessimo segno. Forse bisogna che anche i colleghi inizino a ringraziare in pubblico chi finisce effetto di questa, che è la riproposizione del vecchio squadrismo, perché non si fa più con i pezzi di legno sulla testa come decenni fa, ma si fa con una roba che ha effetto immediato su centinaia di migliaia e in alcuni casi anche più di centinaia di migliaia, ma alcuni milioni di persone. Quindi per me solidarietà assoluta a te, Annalisa. No, figurati, ma siccome ho visto i toni con cui delle cose innominabili, perché poi c'è anche l'aspetto antidonna, orrenda. Sì, purtroppo con le donne sono sempre orrende, un po' più violenti. Orrenda, diciamo un po' più violenti. Sì, diciamo che insomma, mamma mia. Diciamo vabbè. Così. Allora, ma si va avanti. Ecco. Dicevi gli effetti in Italia. Tu sottolineavi giustamente che il giornale non ha dato il suo appoggio alla Le Pen, e mi sembra chiaro che Berlusconi non tifi per la Le Pen, perché significherebbe per lui cedere lo scettro del centrodestra ai Salvini, alle Meloni, quindi insomma è abbastanza chiaro che sia così. Ho visto stranamente un silenzio di tomba da parte di tutto il Movimento 5 Stelle. Ricordi quando vinse Trump, Grillo era molto felice della forza antisistema che andava avanti. Adesso non ha parlato nessuno, né Grillo, no, né silenzio totale. Deputato, silenzio totale. Ieri notte mi sono fatta perversione, lo so, un giro di social per vedere se di Maio piuttosto che di Battista. No, silenzio totale. Zero, silenzio totale. Non hanno ancora capito come interpretare questo voto, perché di certo la Le Pen non è andata così bene come qualcuno sperava. Ora, sia chiaro, il Movimento 5 Stelle non è assolutamente da considerare leninista, come invece forse possono essere maggiormente considerati Salvini e Meloni, perché non è sovrapponibile, no, il suo programma a quello dell'estrema destra francese, però tifa in qualche modo per i movimenti antisistema, perché è sicuramente un movimento antisistema, quindi si identifica con una parte di quei temi. Però, come ti dicevo prima, credo che si senta diverso proprio per la capacità di prendere voti a sinistra, addirittura al centro, no? Perché certo, poi l'abitudine a dire spesso tutto il contrario di tutto, come avviene sui temi del biotestamento, come è avvenuto di recente sul biotestamento, come avviene anche sui migranti, perché per esempio sui migranti adesso stanno lanciando un messaggio molto di destra, in questo caso si può dire, con dei toni di destra, perché definire le ONG che li salvano in mare dei taxi, non saprei definirlo. No, ma poi lo scontro domenicale di Maio Saviano era uno scontro ricercato, quindi siccome stiamo parlando ma simboli che parlano a milioni di italiani, perché ma questo. Certo, ma era ricercata anche l'uscita sui romeni, che qualcuno ha derubricato a gas, non era una gas, era voluta, e così come però, è voluto lo scontro. Sulla Le Pen esitano. E dall'altra parte a sinistra, secondo te, invece? Su PD, Renzi? Renzi Macron è stato il primo a sostenerlo quando ancora i sondaggi non lo davano così alto. Cioè lui, questo messaggio, come vogliamo chiamare, di sinistra un po' annacquato, di sinistra, non gli dispiace e ci si identifica abbastanza. Quindi lui in questo momento, anche ieri... Ma secondo te è più perché è sinistra annacquata che perché è un rottamatore anche lui? Ma no, ma Macron, io guarda, lo puoi considerare un rottamatore? Macron, no, io non lo considero affatto un rottamatore, dire la verità. Il consigliere di Hollande, e poi comunque è scelto da Attali, portato su, insomma, in politica da Attali. No, il punto è che Macron ha avuto l'appoggio di Beirut, cioè quindi tutto quel centro-sinistra, molto centro, in cui Renzi si riconosce, almeno questo è quello che io penso. Quanto a Mo e al crollo della sinistra tradizionale, sì, defunto, va bene, però è anche vero che c'è stato un forte richiamo al voto utile contro la Le Pen, contro la paura dei sovranismi e dei nazionalismi, e in Francia il voto utile è molto sentito. Sì, il patto repubblicano è quello. Sì. Quindi non so, magari io sono un inguaribile ottimista, ma io non credo che siano defunti i partiti tradizionali definitivamente, così come non ho mai creduto che destra e sinistra non esistano più. No, ecco. Certo. No, no, questa è una pericolosa illusione, credo. Diciamo, ci sono delle fasi in cui gli elettorati non si riconoscono più, certo, nella maniera precedente di interpretarle o nei loro leader. Questo poi è il punto fondamentale. Allora, Elisa, che dici invece? Cominciamo anche in questo caso dalla destra italiana. Berlusconi si immaginava di arrivare di nuovo così in auge da poter guardare con sufficienza a Le Pen e a Salvini e alla Meloni? Secondo me lui stesso è persino a volte incredulo, per quanto sia abbastanza self-confident l'uomo. Tu che dici? Sì, paradossalmente questo voto lo favorisce, nel senso che dimostra che la ricetta sovranista riscuote consenso, ma non è all'altezza del governo, cioè probabilmente non ha i voti per diventare una forza di governo. E quindi questo è un punto. Però parliamoci favorito. Chiaro, se dovesse succedere la grande sorpresa che la Le Pen vince, per Berlusconi croce sulla testa. Sì, sì, infatti stiamo ragionando del primo turno, poi dopo quello che accadrà. E a me colpisce un altro elemento, che nei discorsi sia di Macron che di Le Pen c'è comunque il richiamo al popolo, cioè nonostante le differenze evidenti tra i due, uno europeista e uno anti-europeista, però questo tema del popolo c'è anche in Macron. Per quanto se anche dovesse vincere Macron, avrà comunque un problema enorme, perché se noi guardiamo la mappa del voto, vediamo, come tu dicevi all'inizio, che è totalmente... È una Francia spaccata, proprio, ecco. La rappresentanza sociale per titolo di studio, per speranza e futuro, per reddito presente e attese di reddito futuro e per reddito dei figli, cioè stiamo, esatto, parlando di cose di una certa impatto, cioè, proprio spaccato. Il fatto che a votare Macron siano le città, sostanzialmente chi sta bene, i giovani o comunque insomma... le città come al solito, mentre le campagne, le periferie, la Francia profonda vota in massa Le Pen, questo è un problema enorme. Poi secondo me, adesso io lo dico proprio a pelle, Macron non ha la comunicazione per parlare a chi è disperato o a meno. Cioè bisogna, la politica è fatta, non come dice Renzi, solo di storytelling, però i leader politici devono trasmettere l'idea di credere nel fatto di poter davvero dare qualcosa a chi sta peggio. Quindi Macron, uno lo sente parlare e dice ma vabbè, è questo, cioè io, cioè tutta la come dire, il trionfalismo che sentivo insomma tanto ieri, un po' che leggo sui social dei fan di Macron, io faccio fatica a condividerlo, nel senso che comunque il messaggio di Macron non ha sfondato nella Francia profonda, e questo è un problema. E infatti, secondo me, vedremo in queste due settimane. Naturalmente, molti mi dicono: ma come, Giannino, sottovaluti il fatto che, dal punto di vista dell'Europa, non c'è dubbio che, dal punto di vista dell'Europa, che Macron sia primo per quello che si temeva fino a qualche settimana fa, cioè la vittoria totale del populismo, del nazionalismo, dei dazi, della chiusura, è meglio. Però ragazzi, noi dobbiamo analizzare sul fatto, vi sembra già tutto scontato e acquisito a tavolino? A me no. Io ieri sera, quando sentivo le maratone, dicevo, ha parlato da presidente. Ragazzi, i voti si contano, eh? Quando ci sono sismi di questo tipo, e ripeto, guardate la cartina elettorale della Francia di ieri e fate i conti di quanti devono votare uno, due, quanti di chi ha votato un altro candidato che con Macron fa a pugni debba votare per Macron, e fatevi le vostre domande. Io preferisco fare così il mio mestiere invece che dare per scontato che tutto è avvenuto. Intanto grazie a Annalisa Cuzzocrea e grazie a Elisa Calessa. Sentiamo qualcuno di voi, cominciando da Carlo, che si chiama da Carbonia. Carlo, prego. Buongiorno. buona radio. Buona radio. Allora, volevo proporre una lettura un po' alternativa, naturalmente non si può licenziare l'argomento in pochi secondi. Certo. Mi riferisco al fatto che purtroppo spesso sento mettere in un unico calderone questioni politiche, sensibilità politiche che sono differenti. Oimè, la semplificazione giornalistica, ha ragione, ma ci faccia capire. Sì, cioè mi riferisco al fatto che si parla quasi indistintamente di populismo, di indipendentismo, di sovranismo, di nazionalismo. Io per esempio posso timidamente rappresentare un pensiero indipendentista sardo che non ha niente a che vedere col nazionalismo. Noi addirittura abbiamo però imparato lei ha ragione, certo, a utilizzare altri termini alternativi. Noi diciamo non siamo nazionalisti, siamo nazionalitaristi. Io la ringrazio perché faccio un esempio. Io sono guardato sempre con simpatia nella storia, come osservatore, mica perché faccio politica, a la Catalogna, a vicende come quelle dell'Irlanda, per essere chiari, e della Scozia, e quindi specificamente stiamo parlando di autonomismo, e vale quindi per la Sardegna, vale per chi ha storie diverse rispetto ai grandi stati nazionali. Questo non c'entra niente con nazionalismo patriottico, che fonde insieme nel mito nazionalitario romantico lo Stato, identificandolo con moneta, esercito e dazi. Quindi Carlo, in questo hai perfettamente ragione, siamo tutti attenti a non commettere questo errore, stiamo trattando le cose molto molto molto molto diverse, molto diverse, non c'è dubbio. Antonello da Terni. Antonello. Buongiorno, buongiorno. Io volevo solo fare una riflessione sulla crisi dei partiti tradizionali. Io sono iscritto al Partito Democratico, ma secondo me noi abbiamo fatto un grosso errore, sembra strano, è stato quello di condannare l'espressione "i cittadini non ci hanno capito", e invece di comprendere il motivo per cui non ci hanno capito abbiamo iniziato a semplificare sempre di più il messaggio, sempre di più fino a banalizzarlo. E la politica è diventata qualcosa di semplice se non banale anche nel mio partito, ma in generale tra il flipper e il jukebox. Devo dire esatto. Che sono abbastanza d'accordo con lei. L'ipersemplificazione mediatica di chi la spara più grossa in pochi secondi in televisione. Guardi Antonello, che secondo me i vecchi partiti muoiono soprattutto per questo, per leadership che coincidono con questo. Però ovviamente qui l'opinione di ciascuno vale uguale. Allora vedremo cosa avrà in queste due settimane. Io mi auguro solo che Macron si dia un po' di calore e la smetta di leggere a tavolino quei discorsi freddissimi, perché ha bisogno di parlare con calore. Bravo Gabriele e a chi l'ha liberato che torna con noi. Continuate su Radio 24, io ci sono anche oggi pomeriggio alle 16:30 la versione di Oscar, ma non domani mattina. Io obbedisco al palinsesto, ma il palinsesto non ci prevede.